grande mago, incantare le ragazze di serpente, mangiare fuoco come un giovane drago, dar meraviglia agli occhi dei presenti, avvitarne il collo e toglierne il respiro, un tuffatore in alto, un trovatore perso, far sulla corda salti da capogiro, passare muri e tenebre attraverso, come un cammello entrare nella cruna, librarmi equilibri, sta squilibrato, uno che sa stralunare la luna, polsi di pietra e cuore alato, e stupire tutti quelli che non sanno la fortuna, che non hanno mai una festa, i tristi e i picchiatelli. Io lasciavo a casa un figlio, gli occhi dietro la finestra, un saluto nel berretto e non uscì un coniglio, accorrete pubblico, gente grandi e piccoli al suo numero magico, mille più incantesimi, piano non spingetevi, costa pochi centesimi. Volevo diventare un pifferaio, stregare il mondo ed ogni sua creatura, crescere spighe di grano a gennaio, sfidar la morte senza aver paura, e mettere la testa in bocche di leoni, un domatore vinto, un cantastorie muto, far apparire colombi e visioni, l'uomo invisibile, l'uomo forsuto, lanciar coltelli e sguardi come gelo, saper andare in punta delle dita, uno che si getta vuoto nel telo del lungo inverno della vita, e portare sopra un carro e le mosine di cielo, tra silenzi d'ospedale e strappi di catarro. Io restavo zitto al fianco quando mamma stava male e sembrava Pulcinella dentro il pigiama bianco. Accorrete pubblico, gente grandi e piccoli al suo numero magico, mille più incantesimi, piano non spingetevi, costa pochi centesimi, se sapessi un dì innamorarmi di quelli che non ama nessuno, se potessi portarli lì dove il vento dorme, se crescesse acqua dalla luna, se crescesse acqua dalla luna.